alle 10. Voilà. Ehi, arrivati, sono arrivati. Canale 10, break. Hola. Oh, oh, oh, oh. Pronto? Pompuglio, ci sei? Chi è? Pompu. Chi è che chiama Pompuglio? Avanti. Ma non sto uscendo. Alto. Hola, hola, hola, hola. C'è qualcuno sul canale 10, cambio. Chi è? Beh, Tattarino. Cosa Tattarino? Cosa? Che non sono Tattarino, ciao Gianni. Ah, Pompuglio, mica ti stavano chiamando. Ehi, sono appena entrato, ero un attimino in cucina a mettere il telefonino a caricare. C'era qualcuno che ti chiamava, Pompu, però non ho capito se era Antonio o chi era. Ah, vabbè, già entra là, se... non c'è nessun problema. Andà, beh, come ascolti di segnale di radio? Allora, sento segnale buono e la radio sento il televisore, penso che sia. Più forte di te quasi. Il televisore della camera di Simona, capito? Brava, brava. Adesso con cosa stai facendo? Che microfono hai? Che saverta sto usando? Con lo Saturnetto. Ho Saturnetto? Eia. Perché? Di nuovo Saturnetto c'ha? No, non è mio questo, è di Massimiliano, lo sto controllando, capito? Ah, sto facendo qualche lavoro? Eia. Sto facendo un lavoretto. Vabbè, c'è un trasformatore che in pratica scalda, che arriva a 35 gradi, una cosa del genere, però non c'è nessun assorbimento. Abbracchi l'ho spento, 35 gradi questo trasformatore, che è molto strano, non dovrebbe, se non c'è assorbimento non deve neanche scaldare. Io che l'unico superstite di Saturnetto è il mio, vabbè, andiamo a me, andiamo. Non lo dite voi, non te la mandare. Cosa? Ho detto non te la mandare, che poi magari ti se ne fa cosa che a te. Mamma mia, ci mi tocco le balle, buonasera a tutti. Antonio, ma non sei riuscito ancora a trovare il tuo difetto. Adesso magari ti hanno lasciato di voltaggio, perché mi dà come voltaggio 14 e 4 nello stampato, capito? Cioè dai i fili che vanno lì della sessione. Adesso funziona, lo vedo. L'ho manco toccato, l'ha ceduta. Non l'ho neanche toccato. L'unico problema è molto strano che questo trasformatore che dà 18 volts scalda anche se il barocchino è spento. Cazzo, non deve scaldare se non c'è assorbimento. È molto strana la cosa. Non so che dirti io a questo, non che cosa gli ho fatto, gli ho tolto i led perché mi stavano accecando, gli ho messo le lampadine tessue bianche, un po' più gialline, ma sono originali, basta, non ho fatto altro. La radio è perfetta, non mi ha mai fatto nessun difetto né di frequenzimetro, nulla, perfetto, proprio non lampeggia, con il decimale, tutto qui. No, beh. Vedo un po' magari qualcosa che... qualche effetto così, ma nel circuito stampato, non so, vai già. Perché che difetto li stanno facendo Massimiliano? Si spegneva il frequenzimetro. Qualche falso contatto deve essere sicuramente. Perché lui aveva detto che come lo spegneva lo riaccendeva, poi si riprendeva. No, in lui se non c'ha nulla. Ieri sera stava facendo questo difetto, ma sicuramente qualche cosa che hanno attaccato qua e le rompeva le scatole. E mi faceva sparire le modulazioni, addirittura il rumore. Già, perché è un vintage, non c'ha noise blanker come queste radio di insomma più nuove, quindi magari gli entrava il segnale più alto, capito? Ma non avevo dubbi, non aveva niente. Però ti ho detto dipende da te, non che sia la radio, dipende da te, nel senso che se avevi tu rumore, perché noi non ne avevamo. scappa gappa. Va bene. E quindi Antonio, cosa hai deciso di fare? Lo fai a pezzi? No, non lo faccio a pezzi, tranquillo. Ma poco fa ho staccato il frequenzimetro che ho voluto controllare se c'era qualche saldatura magari. Mi è capito questo. Invece tutto a posto, ho controllato tutte le saldature del connettore. Sono tutte ben saldate. Figurati. L'unica cosa, quando l'ho aperto c'era appena di ruggine in un condensatore, c'è, vicino alla, come si chiama, al transistor che già si vede che è leggermente scaldato, rimane appena giallognolo, no? Capito? Quindi niente. Adesso domani vediamo un po', dato mi sa che glielo cambio quello del transistor di stabilizzazione, così almeno il problema glielo metto nuovo. È uno stabilizzatore, mi sembra un 78-08, se non mi ricordo male. Ma condensatore? Gli stacco il condensatore perché era appena nero, come se avesse avuto qualche goccia di acqua all'interno, capito? Ma era appena ossidato. Gli stacco quel condensatore e glielo metto nuovo. E più il cambio stabilizzatore, il transistor, così almeno non crea problemi, capito? Perché l'altro giorno, quando ho toccato, che stavo modulando con te, cazzo, sembrava pieno fuoco quel frequenzimetro. Bollente proprio, era. Ma io non me lo scaldato qui dentro, assolutamente. C'è qualcosa che non combacia. Vabbè, controllano bene, ma si incendi a tutto, vai già. Allora, io non me ne intendo, ma non sarà la tensione che arriva più alta al frequenzimetro di quella che deve arrivare. Magari c'è qualche resistenza per far arrivare, non so da quanto deve essere, però per diciamo diminuire la tensione, magari quella resistenza è partita, provo a vedere quello. Sì, vabbè, adesso domani vedo un pochettino quando lo uso, se la tensione rimane stabile, capito? Perché lo scendo da 14,4, lo scendo a 13 volts e vediamo che se rimane stabile, capito? Quando in assorbimento l'apparecchio. Potrebbe essere anche che sia magari il circuito dell'alimentatore, che c'è il trimmer, magari che tutto allora si solleva, per dire da 14 volts sarebbe per dire 16 o 17, quindi fa quel difetto, capito? Niente di strano, ma che cazzo, scaldami questo trasformatore, è bollente, cazzo, se li appoggio l'uovo sopra, lo frigo. Ma trasformatore dentro la radio? Ehi, il trasformatore quello grande, dell'alimentatore, dentro la radio, scalda, non deve scaldare, cazzo, così. È una cosa un bel strana, anche a baracchino spento, non deve scaldare, eppure scalda, cazzo, è come se fosse in assorbimento, perenne. No, non deve scaldare quello, mio è la radio, rimane sempre fredda. Mai, né il case, né niente, ma neanche il dissipatore, è sempre freddo. No, non scalda, assolutamente, questa dà la massima potenza. No, Antonio, c'è qualcosa che non va, controlla bene l'alimentazione, per adesso mi ricordo che quanto deve arrivare il frequenzimento, ma mi pare che non sia 13,5, 13,8, attenzione, è molto, molto più bassa. C'ho già lo chassis dove c'è l'integrato audio che sta bollendo, quindi secondo me qui arriva la tensione è troppo alta. Lo chassis sto toccando che sta bollendo, aspetta che spingo la... Vabbè, quello difetto non lo sta facendo, fa un po' vedere che parte di fa quel difetto di eccezione senz'altro. È caldo, lo sa sì. Non deve scaldare cazzo così, non è possibile cazzo. Anche dove sono tutto lo chassis intorno è bollente. No, non lo riscaldare, ti ho detto la mia, posso stare ore e ore parlando, agghiacciata e fredda, ma anche il dissipatore finale della radio è freddo, non scalda, non deve scaldare assolutamente. Se scalda così vuol dire c'è qualche problema di fondo, Antonio, quindi stai attento, controlla bene le tensioni. Vai già. Prego. Ehi, avanti, Massimiliano, buonasera. Cappa, ciao, buonasera, ciao Gianni, Claudio e Antonella. Ehi, ciao Massimiliano, mi hai sentito, saluto. Bene, mi senti, sì. Grazie, buon bene, dica cosa. Lo c'avevo io, che sono stato a un accidente, il pannellino dove sono integrati, il modulatore. Domani mattina gli diminuisco il VOS e vediamo se fa la stessa cosa. Io ti ripeto, Antonio, io ce l'avevo qua e lo usavo tutta la gira. Questo difetto, ricezione, di scaldare, non ha mai fatto nulla. Che effetto ti fa di ricezione, Massimiliano? Nulla, nessun difetto, non mi è mai mancata di ricezione né di trasmissione, mai. L'unica cosa era il frequenzimetro che l'accendevo e poche parole stava sempre, se ne andava a zero, allora davo un colpettino così sul keys, poi si riprendeva e la radio funzionava bene tutta la sera. Io non me ne intendo, ma magari sta arrivando più corrente al frequenzimetro di quella che deve essere, magari c'è qualche resistenza che regola la tensione e ne arriva più corrente, capito? Magari è partita la resistenza e quello lì è una fesseria, sicuramente, dai. Già, può essere, boh, non lo so, se c'hai un trimmer di quella cosa lì lo abbassi e così sei sicuro. E dice che passa la diventazione, si deve trovare mi attacco dopo il tempo che sta scaldando, sono riscaldato tutti i tutti via. Ok, va bene, adesso così lo lasciamo freddare un po'. Guarda Antonio, ciao Mancini, guarda Antonio che deve avere qualche resistenza variabile, così chiamato trimmer, per la regolazione delle tensioni. Devi partire da lì a vedere se scalda, perché ti ripeto, una radio eccezionale, non scalda, no, assolutamente, è sempre ghiacciata, io la sto usando, mi sto accorgendo che non scalda per niente, ma neanche dietro dove c'è il dissipatore finale, no, non scalda, non deve scaldare assolutamente, quindi c'è qualcosa, qualche tensione che sta arrivando troppo, e forse il frequenzimetro andava in tilt per quello, perché la tensione è troppo alta, se scalda dove c'è il frequenzimetro è un problema di tensione. Avanti già. Magari domani lo controllo da me, da Antonello, domani che c'è più tempo, dalla mattina, si fa, se lo lascia accendere se lo controlla, magari è una gazzata, perché ho qualche falso contatto, ma il fatto che sia falso contatto non fa scaldare, quello è, e vabbè, andare là. Già sarà una fesseria, Massimiliano. Ma infatti è una fesseria sicuramente. Spero che sia una fesseria. Che signori rimane come te. Sì, Massimiliano, sicuramente qualche resistenza variabile che è andata in tilt, manda più tensione e frequenzimetro va applicato su. E automaticamente arrivando più tensione la radio scalda, tutto lì, quindi bisogna partire da quel movimento lì. Va bene, Antonio sta cambiando, riprendi Massimiliano. Ehi, positivo, va bene, adesso vediamo un po'. Ma tanto lì comunque c'ha un trimmerino, ci mette il test, glielo abbassa, glielo porta a 13, a 13,5 e lo prova così. 13,5 per che cosa? Per la tensione del trasformatore al frequenzimetro, anche a 12,5 lo puoi mettere, capito? Anche a 12,5. Ma penso che comunque non prenda solo la tensione del frequenzimetro lì, da trasformatore, non è che va solo al frequenzimetro, credo che va tutta la radio. Ma gli strumenti, illuminazione, tante altre cose, però le tensioni, se non c'è il manuale davanti o ti scarichi il manuale, non sai quanto esatto. esattamente devono essere, perché mi sembra strano che sia 13,8 un frequentimetro. Cazzo, è fissa dei liquidi, quindi la tensione potrebbe essere da 10 a 12 volte secondo me, non è così alta. No, non è l'altro, è 13 volte per questi metri, e c'è una stabilizzazione per l'intenzione, c'era, adesso non mi ricordo se è 78-08, 06, non mi ricordo bene adesso. E domani glielo cambio pure, infatti cambio il condensatore e anche lo stabilizzatore, perché è dietro è appena appena giallo di colore, quindi è scaldato. Capito? Però l'unica cosa che voglio fare, domani mattina sto lasciando la stradale. Domani mattina vengo la tensione dell'alimentatore, la presenza è 14, scendo a 13, scendo e vediamo se mi fa questo difetto qui che scalda così. Ma la tensione del trasformatore è 14, no, come lo facciamo? Guarda, io l'ho visto aperto facendo il mio lavoro, misurando proprio, prendendo la tensione per fare il lavoro, la tensione del trasformatore era 12,8, a 12,8, no, questa 14, 12,8, neanche 13 era. Ma poi te ne accorgi se mostra la tensione, perché diventa incandescente, luminoso, forte, capito? Te ne accorgi se la tensione è molto alta. Ho controllato i fili, col testo dietro, ho capito dove c'è lo stampato. Attenzione, sono 14,4. Poi adesso lo spento, come si chiama il baracchino, adesso lo raffredda, sta raffreddando, dove ci sono i due modulatori, l'integrato audio e i finali, perché non si poteva neanche toccare in mano poco fa, hai capito? Non deve scaldare così tanto dove lo chassis d'alluminio che c'ha, dove sono agganciati i finali, cazzo, io l'altro rimaneva a capo ghiacciato, rimaneva, figurati. Quindi secondo me c'è troppa tensione stando l'alimentatore. Adesso domani mattina lo riduco e vediamo come va. Sì. Prova a fare così, là. Ah, poi guarda, tieni il telefono ogni tanto. Non l'ho sentito, sono scelto da abbassare l'audio. Forse l'avevo messo silenzioso. No, Antonio, è troppo alta la tensione. Cazzo, 14,8, ma te stai entrando. Assolutamente. Mettili a 12,8, massimo a 13. Massimo, ad esempio, la mia, la tensione che arriva sono 12,8, regolata con la sonda, 12,8. E ti ripeto, la radio è perfetta, non scalda, è ghiacciata, ghiacciata proprio anche dietro. Dietro dove c'è il finale, ghiacciata, non scalda niente, non deve scaldare, è troppo alimentata quella radio. Riprendi già che guardo il telefono un attimo. Sì, magari anche l'alimentatore che non sta alla tensione giusta, chi lo sa. Sono parecchi già che non c'è il soldattati, capito? Ogni tanto qualche pezzo sono usurati, eccetera, qualche pezzo può anche partire. Io nel mio avevo cambiato già una resistenza e poi mi ha fatto quel difetto lì e sono girato le scatole, l'ho dato per quello, perché io quando vedo che una cosa mi rompe le scatole, poi alla fine me ne stufo. Ma io sono a posto con la radio, però è buco il marineggio. Già l'ho visto il video. Cava, ho attaccato la spina, così la fredda anche il trasformatore. Andava bene, siamo la mattina di reo con il trim del coso alimentatore, giro il baracchino e col testo lo metto al massimo 13 volt e poi vediamo se fa la stessa cosa. Capito? 14 mesi sono andato anch'io, vabbè, trasformatore che c'era l'originale, questo non è originale, questo è stato cambiato trasformatore, da 18 volt è 0,18 questo, figurati. Da quanto per me è originale? L'originale non lo so, non l'ho mai smontato, anche perché c'era io quando ho avuto l'altro. Ci avevo l'alimentatore, quello squicci che avevo piazzato dietro, quello che era a pieno drago, c'era l'alimentatore squicci e 12 volt, massimo arrivava a 12,8, quasi 13, perché l'ho controllato le tensioni. Prova a abbassarlo appena appena. Ebbene, lo sapevo, se va un trimmer, lo sapevo a girarlo. Sì, devo girare anche il baracchino, già lo sai. Prima devo girare, non so che magari che, girandolo il trimmer, cazzo, mi dà più di 16 o 17 volte, questo da massimo, il conservatore era 18, quindi non lo so com'è il circuito. Prima faccio lo regolo e poi devo girare il baracchino e mettere lì, come si chiama, il tester. Gava, gava. Perché l'alimentatore passa, partono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 cavi sono, quindi figurati, e sono tutti avanti e avanti. E quindi devo girare per forza, come si chiama, l'apparecchio, lo metto in verticale. Ti ho risposto Massimiliano, ascolta, ma dove stai prendendo la tensione, dal rosso e nero quello più grosso? Ehi. Ok, da lì devono uscire 12,8. Adesso faccio lo squillo al biro, aspetta, un attimo di bianco. Ehi, 12,8, però domani lo metto così, cazzo, metto 14,4 non beh, perlomeno. Tu scalda, cioè non deve scaldare un trasformatore così, a vuoto, senza assorbimento, che con l'apparecchio spento non deve scaldare, è una cosa impossibile. Che trasformatore di tensione a te giudizio? C'è qualcosa che non va, aspetta che chiamo Albino e te lo dice lui la tensione. Ti ripeto, il mio è stato regolato davanti a me a 12,8, era 13,5, andava anche bene, però è meglio tenerlo leggermente più basso, capito? È stato regolato a 12,8, quasi a 13, diciamo, sono stati tutti quei 5 punti in più. Capito? Porta benissimo l'amplificatore lineare, porta benissimo tutto, le tensioni sono perfette e la radio non scalda, non deve scaldare. 14,8, cazzo, quasi 15 volts, è troppo alta. È alta sì, capito? Ok. Vabbè, se domani mattina me lo affreschetto. Io faccio quel lavoro perché sennò cazzo mi sciolgo adesso, a parte che facevo a distanza dove c'è il tavolo e al muro, cazzo, un palmo di mano, giusto, con il mio altro mi sbatto la testa al muro, da pari mi ritrovo il tavolo, più in giù, e lì lavoro meglio. Vedi tu, aspetta che sta chiamando Albino, e tu dice subito l'attenzione qua, ripeto il mio è così, è perfetto, assolutamente proprio perfettissimo, non perfetto, vai già. All'Albino a vedere come va questo trasformatore a vuoto, cazzo, arriva alla temperatura di 30 a 35 gradi, quando è molto strano. Secondo me c'ha problemi con questo trasformatore, secondo me. Che non, a vuoto non deve scaldare, è impossibile. Cazzo. Senti, c'è il cielo che mio lo tengo acceso dalla mattina, io acceso, in stand by, ed è ghiacciato, no? Non scalda, non deve scaldare Antone, assolutamente, non deve scaldare. Non è avuto per quello, mi sono avuto la cosa, vabbè. L'unica cosa che posso fare, no, è tutto un casino. Metterci la metà delle squicci, ma è un casino, devo fare tutto un staccare tutti i fili, cazzo, mamma mia, è un lavoraccio. L'unica cosa, si riesco a trovare un trasformatore di quelli a 13 volt, di quelli grossi, e questo è, mi sembra piccolo a me, è da 80 watt, figurati. Sì, adesso magari le dice anche che cosa è il difetto al mio, me lo dice direttamente, così almeno non ci sono problemi. Io tutti gli alimentatori che ho fatto non l'ho mai scaldato, cazzo. Ma perché non sono sotto, cioè non li accendi, li metti sotto pressione in assorbimento, però quando sei attacchi sotto il filo della 220 e dall'altra parte non esce la tensione, però non c'è niente acceso, cazzo, non deve scaldare così, hai capito? Il discorso è quello lì. Questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Cazzo, non si può tocca. Allora, quello lì mi ha detto, lo devi portare a 13,8. Senza schiacciare portante e niente, perché tu una volta poi schiacci la portante scende 13,6, 13,7. 13,8 mi ha detto che va bene. Ah, va bene, ok. Metto dire che senza avere assolutamente con l'apparecchio spento, cazzo, scalda che sembra arriva a 35 gradi, cazzo, senza avere assolutamente per niente. No, quello mi sono dimenticato. Ho capito. Che mi sono dimenticato di dirlo. E vabbè, dai, al limite se non fa niente, se non mi... Yeah, che c'è stato fare un coso, mi chiama il cielo Gavino domani, da quello che c'è qui in via Follavini, si è prestato un coso, un alimentatore da 13 volt, che sia grosso, vediamo se funziona meglio. No, non toccare nulla, lascia tutto come te, tu porta 13,8 e non cambiare niente, lascia tutto così. Va bene, lascia tutto così allora. Andrà bene. Senta, tu ciucucciù, avanti. Continuate con il vino, ma ci vediamo. Che l'alimentazione vuole giusta a 13,8. A 13,8. Il mio era 13,5, a 13,5 l'ha portato a 13 praticamente. Allora 13,5 l'ha portato a 13, ma 14,8 è troppo. 14,4, no, sempre troppo, Sempre troppo, sì, infatti. Quando ho visto la testa velocità, ecco perché il sequenzimetro andava in tilt di colpo. E anche faceva quel difetto lì. Quando in pratica, quando dai più tensione, il componente va in tilt, capito? Dopo un po' che è acceso, mi arriva la ricezione. E dopo lo devo spegnere, lasciare raffreddare. Non lo accendevo, attivando normale. Perché va in protezione, già lo vedo. 14,4, 14,5. Il mio era 13,5 quando è stato fatto il lavoro. È stato deciso e portava a 13, 12,8 quando parliva a 13. E boh, non si sposta lì con la sonda, col volmetro, la sonda col volmetro, capito? Perfetto a 13. Addirittura, ma ci vediamo, senti Albino, queste cose le sa, 13,5, 13,8, il mio era 13, però era 13,5 inizialmente, ma 14,4 è troppo, Antonio, è troppo, la radio scalda per quello, il frequentimento scalda per quello, sta arrivando troppa tensione dentro la strumentazione. Sì, mi ha detto così, tra. Mi ha detto di abbassarlo, anzi addirittura di non usarlo così alta la tensione, perché ha detto se lo cucina tutto dentro. Ha detto non usarlo, portatelo a 13,8, ma anche a 13,7 va bene, anche a 13 sì, ma tu mi hai detto lo fai perfetto a 13,8 e basta, e lo lasci così, e vedrai che lui va benissimo, perché tanto ha detto che quando schiacci la portante poi si abbassa ancora un pelino, capito? Come il mio, infatti, come il mio, però il mio era 13,5, sondato era 13,5, quando è stato fatto quel lavoro, per non dare troppa tensione all'amplificatore lineare, è stato messo a 13, capito? No, è quella la tensione, 13, 13,5, 13,8, ma 14,4 è troppo, ecco perché frequentimetro scalda, Antonio, quindi non lo usare, abbassa prima la tensione, porta a 13,5 che è meglio, e poi lo provi, e vedrai che non ti scalda la radio. E infatti faccio così. Andrà bene. Tu Antonio, fa una cosa, domani mattina ti metti, mi abbassi quella tensione e boh, non toccarla più, perché poi non voglio cambiare con componenti, fare bim bum ba, poi incasiniamo la radio. Tu abbassami leggermente questa tensione e la provi. Se va bene la lascio così. Ok? Sì, è d'accordo, non c'è problema. Lo faccio così, faccio. Tanto ti parlo mai di tensione, cioè, tranquillo. Adesso vai, mi abbasso, come si chiama, metto il tester, metto due fili saldati, in modo da avere il tester fuori, e col cacciavettino isolato, con la tensione a 13,8, la lascio così, e così vediamo come si comporta, lo lascio acceso il baracchino e parlo tutta la mattina, vediamo, se non fa questo difetto, ti avviso subito se è a posto, basta che sia acceso almeno 6-7 ore, e già va bene, se fa l'effetto me lo fa subito. Beh certo, io tanto la radio non è che l'accendo 6-7 ore, no? Andiamo a prendere un'oretta, ma fammi da, fa giù d'ore, no? Allora, è successo che l'ho lasciata accesa anche tutta la notte, perché stavo facendo un altro piccolo coso e si è ripreso. E poi la sera così la chiacchierata con voi, ma che cosa di, non me l'ha mai fatta, provarsi pure che sia questa tensione troppo alta e magari andava in tilt il frequenzimetro. Va bene, dai, tu portala così, perché non la voglio frugare mi quella radio, non, cioè non mi piace la calda buia, c'ha meno componente, chiedo, capito? Prova, la tieni accesa tutta la mattina, se vede tutta la bassa di tensione, te la tieni tutta la mattina accesa, se va bene, boh, basta, lasciamo così. Era quello il difetto del frequenzimento, ma ci vediamo, vai tranquillo, era quello il difetto del frequenzimento. Scaldava e andava in tilt da solo, se adesso le abbassi la tensione vedrai che la radio è a posto, assolutamente. No, c'aveva uno spinottino che era mezzo staccato dalla piastra, dalla scheda madre, capito? Allora ho compreso, io accendevo la radio, ok? Il frequenzimetro si metteva, un esempio, 27.015, mi stai seguendo? Poi 0.50, 0.750, ok? E quando mentre stavo parlando, questo frequenzimetro spariva e magari mi segnava solo lo 0 e tutto il frequenzimetro andava via. Io cosa facevo? Davo un colpetto sul case, il frequenzimetro si riprendeva, boom, e non si muoveva più, e stavo tutta la sera parlando, il frequenzimetro andava bene, capito? Ehi, ma quello spinottino sicuramente ha surriscaldato e si è sciolto lo stagno, si è staccato, capito? Perché così, ma si vede a fottidine così. Troppa tensione le ha creato quel problema. Se adesso la porta 13.5 vedrai che la radio è perfetta, perché c'è benissimo e non ha nessun problema. Poi basta fare così, basta portarla a 13.5, 13.7, portala così, basta e poi la lasci così. La provi, se vedi che tutto è funzionante, a posto. Sì, va bene, la faccio così la guardia. Perfetto, ma lo faccio, aggancio i due fili da dietro, me li metto al tester e poi mi regolo la tensione e vediamo un po' se così mi lascio anche il tester agganciato, rilascio così mi accorgo subito se c'è qualche variazione di tensione, magari che mi dà falta il salvatore, capito? Così me ne accorgo subito. Sì, fai così io lo lasci sempre fisso, così lo vedi se si aumenta magari, capito? Se si aumenta allora vuol dire che c'è un altro tipo di problema, capito? Comunque gli ho detto che l'alimentatore è da 18 volts, è l'originale. Sì, 18 volts, anche il mio è 18 volts, allora. E non vedeva sì, non voglia. Va benissimo questo assommato di. Se dovesse variare questo trucco, perché così mi hanno detto, se dovesse variare la tensione che oscilla, vuol dire lì c'è la resistenza variabile della tensione del trasformatore di linea che è partito, vuole sostituito quello, basta, non c'è altro da fare. E infatti. È un trimmerino, una resistenza variabile di quelle in ferro, ma quelle lì sono, capito, tutto vicino al trasformatore, poi sì, io non me la ricordo, ma ci vuole poco a guardare nel, al computer e tirare fuori la sigla, comunque quella lì. Se dovesse variare la tensione, che forse non sono stabili, quella resistenza variabile va sostituita perché è andata in tilt, e boh, non c'è altro a fare. Se invece la tensione rimane stabile, vuol dire che se n'è andata la fanguala da sola. Sì, infatti, quella è la circuito stampato dove c'era l'alimentatore, quindi già... una volta che lo giro domani vediamo se, se fa l'oscillazione di colpo che sale da 12 a 15 oppure gliela cambio quella resistenza, gliela metto nuova. Per me se ci vuole una resistenza mettila, non stare lì a guardare una resistenza, se ci vuole mettila quella resistenza nuova. Certo, glielo metto prima, mica posso farmi bruciare la qualche così, no? Non sarà. Capito? Non c'è tutti, non c'è niente, ho controllato tutti i puntali dove sono soldati, non c'è nulla che si muove, quindi è questione solo di tensione, capito? E basta, non è altro. Vabbè, domani già l'ho smontato apposta stasera per controllare sopra, magari sia che ci avesse qualche problema. Sì, infatti. Ma è Gianni doppio ruolo che fino a fatto? Non lo faccio, se non è un telefono, non so. Sì, Antonio non resistente al cacchio, Olga, col 35 centesimi. Se vedi che la pressione varia, che sale e scende, la sostituisci. A me me l'ha sostituita anche ad un alimentatore che era così, la stessa cosa. I boss andavano via, poi quando schiacciavo il capo mi si abbassava la luce, gli dico, ma scusate, 13.8, boh. Ci ho messo il puntale ed era a 12.5, capito? E quindi sono delle stanzate quelle. Però tu regola la prima a 13.5 e fai tutte le prove, lascia accesa, modula, non deve scaldare niente. Se la radio funziona così, non protegge. Gianni, scusaci questo ping pong, ci devi proprio scusare, ti ho sentito sotto là. Infatti ho detto, ma Gianni che fine ha fatto? Non ti abbiamo rilanciato, ci devi scusare. Ah, stavo scherzando, no, stavo ascoltando. C'ero sempre a retto, là, ce la stavo ascoltando. Perché sono cose un po' importanti queste cose, perché... cioè perlomeno io non è che ci ho mai buttato la mano dietro, ho visto che scaldava e cose, ho capito, perché io poi lo usavo sempre con i vati tutti chiusi, a 2 vati, così facevo un passaggio ogni tanto, quindi non è che ti accorgi, capito? Però quando la radio la apriti un po' e la usi, allora lì ti accorgi di tutto. Ti ricordi Massimilia al K? È successa la stessa cosa, tu non te ne sei accorto, me ne sono accorto io. No, già me ne sono accorto anche io. Però, vabbè, quelle lì sono radio completamente diverse, però già scaldava anche quella là, lì ci mettevi proprio le uova sopra, ecco, te le cucinava. Sì, ma era sempre quella resistenza variabile, dietro aveva la tensione troppo alta, te ricordi, quindi, vabbè, non tenendola tutto il giorno in funzione, come le teniamo noi, perché tu sei al lavoro, non hai tempo, eccetera, non te ne accorgi bene, assolutamente. Però è così, una troncata, Lasciamo che dal telefono già le prendi. No, stavo ascoltando, non c'è problema, io a me piace anche ascoltare, non è che devo per forza intervenire, se state parlando io ascolto, io non so che cosa abbia perfettamente, adesso ho capito che oltre questa storia delle frequenze elettro scalda pure, è probabilmente dovuto proprio all'alimentazione, ma adesso provo a regolarla lì. Se lo puoi fare adesso, se lo fa domani mattina, così vediamo come va. Sì, la tensione, c'è una resistenza variabile sulla parte dell'alimentazione, capito, è troppo alta, 14.4 è troppo, a me mi hanno fatto vedere, ho visto, insomma, il lavoro è stato fatto a 13, era 13.5 per non far scaldare l'amplificatore, mi hanno messo a 13, però la tensione è 13.5, infatti gliela confermata anche Albino, 13.5, 13.6, 13.7, ma 14.4, gli arrugherò che sai che lo frequenzimetro. ha messo un termometro del quello che usiamo noi per sapere se c'è la febbre. Si è appoggiata alla, come si chiama, al trasformatore. Si sono arrivati a 40 gradi adesso, 41. Però va di prima, noi siamo a Lugobi, dice la radio. La radio aspetta così? La radio aspetta, sì, la radio aspetta. 40.6 adesso. 40 gradi, ma 40 quindi non sta raffreddando? Ho staccato la spina addirittura. Ho 40 gradi, 40... 41 e 3. Allora non so cosa risponderti, cioè se la radio è spenta, l'alimentazione è, anche se c'è la spina attaccata, se la radio è spenta non so cosa dirti. Comunque prova tu a abbassare la tensione e poi fare la prova. 41 e 3. Figurati. Questo termometro è quello che vediamo per mettere sotto le ascelle, 41,3. E l'ho fatto, guarda, il coso, ho staccato la spina, neanche 4 minuti fa, figurati tu. Buonasera, chi è? Come? Io chi? Non ti ho riconosciuto, abbi pazienza, buonasera. Sì, Eugenio. Se vuoi stare con il peso, avete volte già, non l'ho riconosciuto, abbi pazienza. Ciao, Eugenio. Adesso ti ho riconosciuto, ma se dici io, non ti avevo riconosciuto. Ciao, Eugenio, buonasera, anche perché un po' che non ti sento. Io sto usando sempre di tanto, cambio radio, quindi cambia la ricezione. Senti, Mancini, secondo me ti converrebbe una ciamba albino e dire, ma è possibile che a radio spenta, cazzo, non abbassi la tensione? Allora è in corto il trasformatore. E beh, Eugenio, ce n'è caldo il portatore, se? A me, B2, come sta a posto? Io sono poco fa il portatore. Oggi era micidiale. Sì, ma c'è tutto Corrongiano, Saccargia e tutto canto, tutto acceso. Guarda, noi quando stavamo rientrando alle 5 c'erano due Canadair e un elicottero. Tu pensa che c'è il fuoco dentro il paese, c'era. Allora, per quello il caldo c'è qua, perché qua non ha mai visto un caldo così. Certo, sono uscito all'ora di pranzo, non si poteva stare fuori. Dentro casa da favola, ma fuori a tenere il gatto. Ti sto dicendo che la strada di Saccargia era chiusa. Da dove c'è, diciamo, dove c'è quella scuderia dei cavalli, tutta la salitore della chiesa, tutto incendiato. E il fuoco è salito verso il paese di Corrongiano, ci sono anche video su Facebook e cose. Ecco, dentro un paese si visono i fiammi, Ma ti sto dicendo, oggi, quando stavamo rientrando, c'erano due Canadair e un elicottero, senza contare, vabbè, tutti i vigili del fuoco che ci saranno stati, che non li vedevamo, però una cosa impressionante, qua, le fiamme sopra dove c'è il depuratore, sotto lì di Corrongiano, i fiammi che sono arrivati 20 metri. Speriamo che si incendiano il depuratore, ci ho lavorato lì. Sì, ammettano, si incendiano. Sì, già si incendia. No, già me ne ero proprio già a fuoco in Kiwi. Brecche. Guarda, noi oggi in campo eravamo 47 gradi, era una cosa spaventosa. Adesso domani siamo appunto lo stesso di 28. La stessa cosa, avanti Brecche. Buonasera a tutti. Salute, baci e abbracci a lei. Ciao Marco. No, scusate, è partito il PTT. Buonasera a tutti, sto provando l'MB più 5 per la prima volta con l'adattatore 7 poli, 4 poli, con l'Alinco, Alinco DX10. Tono a 3, volume a 6, come vi sembra? Togli il tono, che barattolosa. Abbassare il tono? Togli il tono, che barattolosa. K, tono a 2, dai, faccio in breve. Tono a 2, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5. Sentiamo anche Gianni e Massimiliano cosa ne dicono. Distanza 40 cm dal mic, volume 6. Ah, ciao G, ero su 19, stavo facendo le prove in cuffia, ma mi fischia anche in cuffia, non c'è niente da fare. Vediamo Massimiliano se come in coppia. Togli il tono, cazzo, mettilo a 0 da giudizio, provo io il controllo, mettilo a 0, non mi piace così. A 0? Tono a 0, ecco, 1, 2, 3, prova, tono a 0, vediamo come va. Perché io in cuffie a me sembrava tutto uguale, variava poco e niente a orecchio. No, non è così, va molto meglio col tono a zero, perché col tono a due e a tre, cioè i medio bassi troppo chiusi, mentre così c'è più acuti, lascialo stare al tono a zero. No, veramente mettendo zero praticamente c'hai solo toni cupi, tono a zero, più vai verso zero più è cupo, più vai verso il 10 più è acuto. È la voce tua, Marco, a zero è la voce tua. Quasi, infatti, ma fatti portare da uno che quei microfoni li ha usati 40 anni fa, cazzo. Sto dicendo lascialo a zero, anch'io ho lo stesso problema. Se ti faccio sentire il Galaxy con l'MB più 5 e il toni a 3 fa cagare, se metto il toni a zero è perfetta. Questa è la tua modulazione, lascia stare a zero, futti dimmi delle tonalità alte e basse, questa è la tua modulazione. Bella, chiara, amplificata con i medio alti giusti, vai doppio room. Gianni? Gianni si è addormentato. È la radio tua in presenza, caro Marco, l'aria a zero di Doni. Oggi già la senti appena la differenza, vabbè, noi siamo, il segnale qua è alto, 9 più 20, quello di Marco, quindi no, ma era te arriva di meno, però la tonalità è molto bella con i toni a zero, se metti a 2 te la smorza, ti chiude, non è bella Marco, lasciali a zero, dammi retta. Via, vabbè, per i toni va bene, saluto tutti, c'era anche Pomponio, l'ho sentito di Striscio, vabbè, riprendete, dai. Quanto ce l'hai il microfono? Il microfono a 6. 6. Prova a metterlo a 7. Allora, così a 6, così a 7, ti faccio la prova rapida, così a 7, così a 8, così a 9, così a 10, tutta la manetta, 1, 2, 3, 4, 5, distanza 40-50 cm dal mic. Da 7 a 10 non cambia niente, ed è molto bella a 7, confermi Natta? Yes, sir. Va benissimo, ciao EG. Aspetta, avete parlato in due, chi era l'altro? Ero io. Allora, da 7 a 10, come ti ha detto Claudio, non cambia niente, però secondo me quel microfono con quella radio non sta spingendo. Sì, ho notato che qua non mi dà molti picchi sul display. Ripeto, questa è la Lincoln di X10, ma non vedo picchi sul display. Vedo appena appena una tacchettina che si accende, ma sai cos'è? Questo è un adattatore, magari l'impedenza non è ottimale, cosa ne so io, tra Mike e Baracchino. Per me non sta spingendo, non sta dando picchi di modulazione, ma mi pare un microfono normale. Pomponio, ci sei un secondo, scusate, non c'è Pomponio, no? Sparito Claudio, no? Sì, Pomponio c'era però, Antonio. Marco, la voce è chiara, però non spinge, come ha detto Massimiliano, dai, ti stavo ascoltando, non potevo rispondere che era al telefono. La voce è chiara, però non spinge, no, non sta spingendo. La LC chiusa quell'apparecchio. Avvicinati un po' al microfono, Marco. Aspetta, facciamo un palmo, massimo meno di un palmo, dai. Aspetta, forse ho capito perché. Questo è l'unico apparato non omologato a cui non ho mai toccato la LC, mai. L'ho lasciato di fabbrica perché col mic originale usciva già bene di suo. Ecco perché è chiuso, c'ha l'effetto, si dice, l'imbuto, mi. Marco, sembra un microfono normale. Perché ha la LC chiusa. Fa il collo di bottiglia. È vero, sì, questo è l'unico che ha la LC chiuso. E quindi mi tocca aprirlo, no? È ovvio. Beh, se no ti metti un microfono normale, parli un microfono normale, se no non ha senso avere una radio del genere, un microfono MB più 5 da tavolo e per parlare è come se parlavo un microfono normale. Sì, e questo non l'ho mai fatto perché lo uso meno di tutti lo uso. E quindi non l'ho nemmeno trafficato dentro. Vabbè, provvederò, quella la prossima cosa che farò sarà quella. Va bene, riprendete, grazie dei controlli, sono in ascolto. Vedi come devi spingere l'MB più 5, questo è l'MB più 5 con il Saturn Echo. Vedi come devi spingere, ed è a metà. Sì. batteria. Sì, perché in cuffia non ti rendi conto di niente. In cuffia o non ti senti o fischia, capito? Non rende. Ci vuole il controllo di terze persone. Vabbè, un'idea me la sono fatta, dai. Vabbè. Eugenio, mi ascolti a Borgotose con Saturn? La radio è buona, amplificata, chiara, forte, regolare. RM25 per spingere così. Se c'è l'abbinamento giusto, se la radio pompa, deve andare, se no è un casino. Vai, Massimo. Io volevo capire che ho richiamato a Baccaro. Volevo capire se c'è Pompulio. Ehi, l'ho dato Antonello Alessio. L'ho regalato Antonello il più 5 connettore Kenwood, alimentazione diretta e tutto, esce una bomba. Quando lo mette si sente anche la televisione. Infatti sta usando il microfono normale perché è un bel amplificato. Sì, alimentazione diretta, connettore diretto 8, 8 pinne, alimentazione diretta sul microfono, tutto fatto da un professionista. Siccome non lo usavo, allora tanto meno lo scrivo, ho venduto un 140 anche a lui, e quindi gli ho dato quel microfono perché lui 60 non ne aveva, ma esce una canonata. Massimi, cosa ti ha detto Albino? Chiacchiera con me. È possibile una cosa del genere, che con la spina attaccata alla radio spenta la tensione non abbassa? È possibile, credo che sale H43. E come mai mio cazzo? Ah no, la spina è attaccata, ma io ho l'interruttore generale, quindi abbasso e non c'è più tensione la notte. Sì, non l'ho mai provato, eppure lo provo a vedere. Mi ha detto che tu una volta che spegni la radio le stacca la 220, capito, dall'interruttore. Ah, capito, sì, infatti io faccio così perché c'è un interruttore generale e non è una ciabatta, è un interruttore apposta al compatto Aircon dove arrivano le due tensioni 220 e la notte quando spengo abbasso l'interruttore, quindi non c'è 220 né sugli alimentatori e né sulla radio, quindi per quello non me ne sono mai accorto. Ma se te l'ho detto Albino, abbiamo tanto da imparare. No, addirittura, il pulsante del Saturn Echo, quello accendi e spegni. Una volta che tu lo metti in off, lui è spento, però giustamente mi ha detto, adesso siamo in un periodo caldo, quindi già modulando sale. E poi mi ha detto, se tu le metti un termometro, appena la spegni la radio, giustamente è a 41, 42, anche 43, anche 44, mi ha detto. Perché scalda tutto il rame, a quando a raffreddare, non è che te lo raffredda così in due secondi, no? Allora vabbè, quello è regolare. Allora, secondo me l'unica cosa da fare è abbassare la tensione a 13,5 e la radio a posto. E infatti mi ha detto di fare quello. Mi ha detto tu abbassa la radio e vedrai che problemi non ce ne più. La tensione, non ti preoccupare. Lui mi ha staccato la presa perché sta temendo. Però mi ha detto è normale. Poi con queste temperature che sta facendo, mi ha detto lì dentro scalda, capito? Vabbè, ci abbiamo tolto un dubbio, se dovesse succedere a me, so che è così, va bene. Avanti Gianni non c'è, vai Eugenio, poi passa per Natalino. Ti arriva bene Natalino adesso? Ma sì, ti vedo prima al microfono. Ma siete Gianni Dromi. Non lasciare spazio, te lo passa gell'altro. Io non ti devo insegnare nulla. Il tempo di bilano microfono, dal portamicrofono, datemelo. E vabbè, invece come mi ascolti con questa radio, cappa. E te ieri c'era questo rumore strano, non capivo cosa era, arrivava a Santiago 7, però copiva anche che arrivava a 9.20, non capisco perché. Deve essere qualche attrezzo che accendono, qualche cosa che c'è qua nel palazzo, perché oggi non mi ha fatto nulla, nessun rumore, niente, è perfetto. E quello perché sono sdraiato. No, qua sì, se no, quindi ho ragione io, Gianni Dromi, sempre sdraiato, sì, quello beh. Ah, io cosa ne so che sei sdraiato e devi allungare la mano per prendere il microfono, Mettitelo sotto il cuscino. Ehi, se non avessi questo dolore al femore non sarei sdraiato. C'ho questo dolore che non mi lascia in pace. Sto prendendo occhi, ridotti di più, passi di pomate, ma mi pare che non c'è verso, va. Un po' di riposo ogni tanto, poi quando sono a portare il cane sono di nuovo col dolore forte. Un attimo che io mi devo allontanare, che così vi saluto. Faccio anche uno squillo a Pompulio, visto che non c'è il radio, va. Ci sentiamo alle prossimine. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Natalino e tutti quelli che stanno ascoltando. E oggi, caso ti arrivi una bomboletta, è una radio, è spettacolare. Già lo sai, non proviene comunque da Novennecche. Ciao, ci sentiamo. Riprendi, B2. No, non toccate quella radio, no? Io ce l'ho. Natalino sta facendo cosa? Spengo il gas, sì. Commuto al 140, sempre perfetto, senza nulla. Ciao Massimino, un abbraccio, saluti a casa, cambio, vai già. E lasciamo Massimino, dai. Poi la carica quando la fai, se siamo qua, se vuoi rientrare, se vuoi fare ascolto, con X, dai. Ci sentiamo. Avanti a chi tocca. Natalino, riprendi. Natalino sta facendo cosa? Avanti, Marco. Importante? Ponte? Che ponte c'è? Di Brooklyn? Allora riprendo io, dai. Mi ho commutato al capo a gemello del tuo oggi. No, già detto, spingi un bel, col tenere più tranquillo più forte. Il Galaxy è molto più forte la modulazione, questa è una modulazione diversa, più corposa, più professionale, ma il mio Galaxy con quell'abbinamento che c'è adesso c'è 100 watt la radio, è stato fatto un lavoro all'interno, ho tolto la scheda eco, non mi rivolto nulla, ho tolto la scheda eco e oggi è stato messo un amplificatore, un 747, capito, senza case, alimentato dalla radio, tutto tarato, fatto, perfetto, 100 watt dalla radio, 90 watt da, per essere esatti, però l'abbinamento col Turner più 3 ma anche con l'MB più 5 col Savelta è perfetto, non ti accorgi che io sono agganciato perché è proprio tarata con le sonde, perfetta, si può inserire, disinserire, dove c'è l'interruttore ecco che non te ne fa niente, lì sollevi, c'hai 100 watt, abbassi, c'hai 10 watt. Avanti Marco. Marcolino Condo. Cosa? 90 watt, l'interruttore? Sì, è inserito l'interruttore.